cielo che si mostra con il plenilunio nel castello da Demiurgo. Niente mi fotte, resto seminudo, piove ad Edimburgo. Questo saggio non si basa su quanto espresso, ma su come sta, dove tutto è spento, nuovo epicuro. Lo spazio che si fa, corpo bardo tibetani, torugo qua giù, i miserabili. Un piano non accordato che si diffonda in penali, che tanto perdo nella corrente d'un mulinello, tanto trovo in ciò che rimane un universo, scheletri danzanti disegnati. Sono saperi sul mondo millenari, ma non attere miti siberiani. Era tutto un'illusione di ghiandole pineali. Guardo in faccia il croupier, per lui non conta ciò che ottiene, ma che giri la roulette, che giri la roulette. È luce che taglia gli occhi, nuovo Louis Bunuel, nuovo Louis Bunuel. Calza in faccia Wu-Tang, Margot Lupin. È luce che taglia gli occhi, nuovo Louis Bunuel, nuovo Louis Bunuel. Suona il metallo dei Mujahideen, ma la battaglia sta fuori dalla battaglia. Nuovo Miyamoto Musashi, mi guidano forze su cui non puoi avere il controllo. Sono Kusai con lo tsunami, ma il ferro fredda col fuoco altro fan di non trovarsi tanto da trovarsi tanto. Ma oggi sto come Mastroianni tra gli Urali con sigari cubani. Pare si conosce di più ciò che non si conosce, c'è Abgan Bardel. Che ciò che si vede si guarda, per ciò che non si vede si osserva. Sembro barba nera, l'ombra che unisce parte alla luce staccata e l'abitata dei corvi d'oro a Buckingham. Ed io che vedo viaggi da grandi spazi anche in brevi tratti tipo Pakistan. Nell'habitat qui là ti fa corno d'Africa.